tra l'altro, che nessuno su 21, avanti Bibi, che so, e a tu, mi ascolti, Zappa che ti ascolto, forte e chiaro. Poco fa che sento la scarica, sento. Anche questa parte mi sento di stato. Come senti anche tu? Una cosa del genere. Cavo, ma non è che sarà tornando per caso? No, è il tempo brutto che lo fa. A parole, meglio che scelti con quella radio. È quella che sei tu, dai. La chiuso sempre. Ho detto, ma è meglio che scelti con quella, la radio. Sta capendo di fare. Detto, se mi senti meglio con quella radio che c'hai adesso. Quello che è quello lì, è quello che uso sempre. Cappa, cappa, e mi senti meglio con quella, vero? Ma con la radio, Senti meglio? No, mi sento meglio con questa. Con quella là è ancora peggio. Cappa, cappa, va bene, forse perché sono della stessa casa. Una volta io non riesco a sentirti anche, perché ci sono delle scariche. Le scariche del tempo umano, hai capito? Papà, cava già il soffiato aceto. Tempo cattivo, tempo cattivo. Perché adesso l'ha fatta? Hai sentito pure tu? Pure io sai cosa sono? Sono i fulmini lontananza. Cappa cappa. Si stanno avvicinando qua. Mi raccomando, staccala quando. Dopo che finisci modulare stacca l'antenna perché sta facendo tempo brutto, non si sa mai. Eia, attacco tutto, anche la corrente, se no mi si incendia il peritomo. Ah. Non fare la carne qui. No, davvero, mio, ogni tanto si sente... E quella non lo fa. Colpa. E adesso vado pure frequenza. No! Adesso ritorno alla frequenza normale. La banda laterale, raga. E allora, la banda laterale. Brutto il tempo a tu. Brutto sì il tempo. Cavolinde e cavolone. Parroccia. Bianco un secondo, dai. Devo fare una cosa. Te ne prendo subito. Cappa e poi Rogero, siamo qui di ascolto, sempre non scendono i fulmini. Una corsettina. Pappagallo di positivo. Ciao Bombolo, buonasera, ben ascoltato. Ben ascoltato anche a te. Ciao Massimiliano, buon ascoltato. Ciao Falchetto, buonasera. Avanti per te ancora, cambia. E dove sei? Al Cutiacca? Sì, al Cutiacca. Scusa, avete parlato in due? No, negativo. Intendi la scarica, ti sento. Ma di diarrea? Che di diarrea? Le scariche di... cioè, di temporale. Negativo, oggi tutto è del riposo. da parocero, meglio così, ma ve la pagano? Trovalo, c'è le telegrafioni, se... Ah, ho capito, ah, per più già. Vabbè, a Roma ancora che cosa, ma assomiglia. Nel contratto medio delle telegrafioni c'è la pizza. Noi non che andiamo male, porta la miseria, è un casino. E altro così. Che vi fare? Ciao, ciao. Ma volevo capire, Marco, ma l'integrazione non ti danno quello che ti devono dare, ti pagano la turna per una pezza. Te la pagano al posto del 100%, te la pagano all'80%. Così, no? Va male, va. Meglio di nulla. Meglio di essere senza nulla, già. Chiama, chiama. A me fa che questo inter che poi non abbiamo. Adesso, fra poco, lo ordiniamo. Ciao, come quello di Antonio? Positivo. Almeno c'è un apparato come Dio comanda. Sì, è un apparecchio, figlia. Magari, cosa ne so. È un apparecchio così. Non ti fa bene il microfono. Devi comprare anche il microfono, eccetera, eccetera. Invece ti compri già direttamente questo, c'ha tutto. Va bene già così come. Metteci pure un boccione di vino. Buonasera, sera. Ah, via già, e Falche, invece che lo microfono, ti compagni un boccione di vino. Passati là. Ah, quello è poco ma sicuro, con la buonasera, Buonasera a tutti, ciao Massimiliano, ciao Antonio, non so che ci sia, di altri. KK. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. Buonasera. No, io direi invece, Antò, se lui si ordina quell'intec lì, visto che sta spendendo qualcosina, ti possono arrivare anche con gli M1000. Se funziona già bene così, perché devi metterci gli M1000, scusa. No, poi brucia, cioè devi abbassare, no, lascia perdere. E perché non ha la modulazione del DM1000, Massimiliano? C'ha già la modulazione così del DM1000, con l'eco, con tutto. Beh, più amplificata è l'OGM1000. No, Antonio lo porta bene quel microfono, che se è normale, capito? Sembra il DM1000, però senza essere amplificato, va bene. Ma oh, vabbè che il Falchetto già ha la voce grossa, quindi... Poi se si beve un boccione di vino, lei c'è quella più grossa. Sotto in banda laterale, capito? Sono tornato in banda normale adesso. Secondo me bisogna lasciarlo così a parte. Adesso già bene cosa... Cosa non è, eccetera, eccetera. No, ma voglio. No, io va bene, io voglio. No, ma dicevo che è coso, fai che tu, c'ha la voce... grossa, capito? Lo porta bene lo stesso. No, ma sono sicuro che se lo do anche con una voce un po' più fine rende lo stesso. Va bene lo stesso. Gamma, gamma. Prendi già. Ehi, ehi, ehi, ehi. Gamma, mi sono andato a testa per uscire e sto portando a Marco la mia suocera. Che domani c'è grande ventre. Davvero, si fidanza? Io mi fidanzo io. Sei contigo la Pirella? No, sei già operatore. Ti hanno chiamato? Meglio. Quindi domani mattina ti operano, così? Certamente. Mamma mia, te qua. Vabbè. Fare si deve, si fa. Sono stato anche troppo aspettando in tensione. più giorni passano, la pressione più viene Massimiliano, quindi meglio farlo prima che dopo. Adesso ci avrei una pressione a 3000, stanotte non dormi. No, non sono così io, sono abbastanza tranquillo. Tanto guarda, domani mattina ti operano e domani sera sei a casa. Ma avevo fatto l'operazione prima. E cosa avevo? Tre buchi sono media, 10 minuti e me, 10 minuti di operazione, ci vuole più a darti il letto, a scenderci giù che operarti. Sono tre buchini da nulla. Vabbè, lo fate nel gru trappa, lo fate. E si è dormito, vabbè, l'ho dormito. E allora che ti fanno l'anestesia al culo, quindi ti addormentano tutto il culetto, la pigriola, tutto addormentato, sì. No, mi fanno l'iniezione per il neurale, quella alla schiena. Vabbè, ti addormentano le gambe, se la fanno alla schiena si addormenta il culetto, il pigriola e le gambe. Vabbè, chi su chi è, magari poi ci pensa l'anestesista sui piatti. Ma vuole dire quella sombardi, non c'è la pizza, Così è. Vabbè, è dormita. E la si scende, quando sente male di fermo la si scende giù. Non penso più più. La porco di una mazzetta, ma manco, manco su la pizza. Capa di capa. Vabbè, comunque. Sono già fatto la gamba alla froscia. Sta rasata, ma se non voglio mettere la gente tutti e tre si fa un po' frosciato io. Tutta te l'hai rasata. Allora, tutta buona rasata. C'è scritto dal collo del piede sino al pupe. Cosa la picchieria? Camminucci la te l'hai fatta, va. E allora, poi già me la faccio vedere quando... Quando mi dimetto, faccio vedere la gamba gay. Mi ha detto di farmi anche l'altra mia moglie, così non sto male, e crescevano insieme i peli, no? Invece così mi piace proprio da un gay. Mamma mia, aspetta il pulito dopo quando inizia a crescere, mamma mia. Davvero, vero. Ma chi a te l'hanno rasato? Tutta quanta. Ma che io tutta la perché non devono avere contatti col pelo? Tutto, per operarmi, a me mi hanno operato al ginocchio, però non sono tre buchi, a me mi hanno sotto punti, non ho aperto bene per vedere cosa c'era dentro. E mi hanno rasato dalla caviglia fino all'inguine. E così è per me. Però invece di rasarmi loro hanno scritto tutto quello che devo fare in un foglio, dopo la mezzanotte non posso più mangiare, da oggi da dopo la mezzanotte non posso più mangiare, io ho già mangiato, quindi me ne frego le palle di più. E poi, come si dice, devo rasare la gamba, portare la ginocchiera, le stampelle. Ma domani c'è un cacco. Ma già, io il consiglio che ti do cosa è? Prima della mezzanotte mangiati qualcosina. Mangiati qualcosina e beviti un bel po' di acqua, perché poi stai domani stai tutto il giorno senza mangiare e senza bere. E ti viene un bel di sette. Hai qualcosina di fame e ti viene. Io ti consiglio di. Io quando mi hanno operato, prima della mezzanotte mi svegliavo lì a paninotto, mezzo imbottito e mi bevevo mezzo litro d'acqua. Riprendi chi è che si porta il cacco? Cava. Per Paolo. Due con la cannuccia te li posso offrire io. Avrò mangiato un cacco. E tu ti rimani due cacchi con la cannuccia? E oggi ho compreso, te lo compri un cacco? No, io non parlo mai. Ah, Pierpa, ho visto, anche la terza gamma ci ha fatto lucida. Cosa ha fatto? Tutti i muscoli se li ha tolto. Oh, raga! Raga! Dimmi, già, entra, dai. Vi vi saluto, dai, un attimino che il compagno Marco, la mia suocera, con mia moglie, e poi rientro, dai. Zappa. Me, allo 40, lo scende. Vai, Fabetto, riprendila. Cappa Rogere, cappa e poi Rogero. E allora? Beh, è meglio che se la faccia l'operazione, lui sta più tranquillo. Ehi, anche la piccolina si è arrangiato. Vai, chi? Allora, adesso le metto il cappellino. E già le potete abbassare le voci, sì. Ehi, lascialo, bebè. Buonasera, e allora siamo diretti? 5 direzione K, già mi sta sapendo in questo momento, Gava. Gava, Gava, va bene. Di questo pizzaiolo, non cattivo bucaccioni. Io mi ricordo, guarda, quando c'era una pizzeria lì in via Bugino, le quattro stagioni, mi ricordo una volta ho preso questa pizza con fame, con la legna, aspetta, era tonno e cipolle. L'avevo pagata 5.000 lire, mi sembra, 5.000 lire. Guarda, uno spettacolo con la pizza, buonissima, veramente buona. Quella è l'unica pizza che ho mangiato in vita mia buona. Se no, pizza buona io non ne ho mai mangiato. No, oh, vabbè, già ci sono dove le fanno buone, questo bisogna dirlo. Magari le assassari come pizzeria buona, non lo so, non c'è. Beh, no, ci sono, dicono che sono buona con tortone, se no non le ho mangiato lì. Da cosa, no? Da... come si chiama? Da... da? Lo smucirì, lo so. Comunque, vabbè, come mi fa chiamare? Ma l'ho rimosso, guarda. Oh, ripeto anch'io, sono su Skype in chiamata. Arrivo subito, ma vai, che fa? Vabbè. Ma che magna Massimo, già... sono tutti voi, no? Io la mangio la mattina, colazione, a pranzo, a cena, sempre. Quattro stagioni, margherita, droga, tu mangi, vero? Col pelo, senza pelo. Allora, con le linguette di riccio. Che buona la pizza. Certo, a chi piace, a me no. Però mangi quelle al taglio. Ehi, quelle di via Rosello. Ciao. Non sono la matrice, bro. No, è lo stesso. Diverso sapore, diverso gusto. Pare una pezza. La pasta è diversa quella che fanno per le pizzette, non è uguale alla pizza grande. E già sono il procedimento diverso, un po' diverso. Gatta. Girare, ma non ho sentito nessuno. sono la TV, ho messo un volantino, ho otto camere. Oh, perché? Provo a vedere se sono in banda. Adesso provo. Comunque, non sapevo le leggi di scrivere quanto di stanno a piovere. Oh, Dio. Fabrizio, è di brutto pure. Cazzo, non è possibile. Quando? Mi ha iniziato adesso, adesso, adesso. Ma Eva però. Certo, diavolo. Allora bisogna attaccarmi tutto. Ma no, Ehi, che sta salendo. Ah, tu sei un bastardo che ha tirato stasera. Yeah. Oggi è stata una giornataccia di pioggia. Ma non ho sentito che ho messo anche per domani. No, a quanto pare no. Ah, stasera, prima che uscissi io da casa, è diventato tutto il posto bianco. Ha fatto questa grandinata che paia di zinco, che ho messo le tre. Ehi, prima, poco prima delle tre. Cazzo, mia grandinata, te qua. E anche qua l'ha fatta una grandinata. Preso? Avanti. ripreso. Ah, tu sì. Ho capito bene. Ho ripreso, sono andato a prendermi le sigarette. Gaba, gaba. Riprendita allora. E ne meda. A te la sta piovendo. Ma va a migliorare di qua, no? Non fa piovendo. Ah, capa, capa. Va a migliorare. Ehi, ah. Cosa sta piovendo? Sta parrogio. Cazzo, ma sta diluviando, non piovendo, diluviando. Che miseria, quella sale qua adesso. Diciamo sono andato pezzi che devo arrivare a fare mangiare, però non le mangia. Volevo io rubare che sto imparando qualcosa. Cioè, facile. È una cosa che... cioè, è molto difficile. A prima chicco, a scrivere. Un po' ti intrippi, ci metti mezz'ora a scrivere una parola. Poi una volta che prendi la mano, già, papà, non c'è. Io vedo mia sorella che è velocissima. Vabbè, l'ho abituata, è sempre un su Facebook. Comunque pure io qualcosa l'ho imparato, sto guardando. Infatti me lo sono preso un piccolino. C'ho Windows 7. Vabbè, piano piano, che non è molto difficile, piano piano. Non si riesce a impararlo a tu, perciò... No, lo conosci Windows 7? Non conosco la tua parte, devo essere sincero. È molto bello come programma. Piano piano lo sto imparando, ne ho preso uno piccolino per me. Aggiungi a vedere cosa annesci. Piano piano sto guardando, sto osservando. E ho già capito alcune cose, dai. Piano piano, ma portatile. Portatile. Sono piccolino, Piccolo, non è molto grande. Già, non è difficile, ma non è neanche facile, quando conosci i movimenti che devi fare, poi se uno ha la memoria, se ne ricorda le cose, ma piano piano sto imparando. Io una cosa ti dico, sulle chat non mi piace molto entrarci a me, no. Non sono molto d'accordo. Ah, io mi diverto, guarda, mi diverto anche tanto. Ti conosci le persone giuste, tu. Ci sono le persone che ti attaccano, quello sì. Ce ne sono più di uno, ce l'ha qua dietro un nick e non ci puoi fare niente. Ma comunque conosci anche persone buone, buone d'animo, non cattive. Ce ne sono tante, ma anche cattive ce ne sono tante. È una giungla, buonasera a tutti. Mamma. Prendendo Gianni, è una giungla, ciao Gianni. Ciao a tutti, buonasera, sono rientrato. Grazie a parocero. È tutta una giungla tua, è così. È come nella vita reale e nella vita virtuale. Ci sono quelli bravi e quelli cattivi. È così. E vabbè. Che ci vuoi fare? Qualche messa di bisticcia, non lo so, no, non mi vanno tanto, hai capito? Scusa, ma anche io trovi le persone buone e le persone cattive, giusto? Però la vedo su un altro pianeta, la vedo, e se uno mi scoccia ti domando direttamente a quel paese, da cui sono condannato a farlo. Invece lì a chi trovo? Non so, troppo. Qua è un casino. Adesso mi sta caricando i programmi qua. Che casino. Ti diciamo per difendere tu, se ti sai difendere. Io grazie a Dio già riesco a... mancavo abbastanza bene nelle chat. Non è buco, non è poco. Perciò... io so come che vuole bloccare le persone. Chi fa il coglione, prima o poi si scopre chi è, no? Perciò io non lo faccio mai. Io parlo dove sto io, eh. Io non puoi sbagliare, non puoi sgarrare, perché se sgarri fai. Io avrò un pensamento anche, secondo me dovresti chiedere informazioni anche alla persona che stai parlando. Loro che ci ti rompi le palle, sai, care. Ma infatti, Dante, già, riprendi. Grazie le informazioni, se non ti conosco non tu, manco per le palle, a parte che c'è un biglietto che c'è il ballo, in certo c'è un biglietto, io per primo dicevo di essere una donna per vedere come le tattiche che avevano gli uomini per attaccare con le donne, allora mi divertivo e dicevo che era una donna, che era una modella, che tu sei la gente che viene appresso, poi ho fatto il contrario, ho detto che ero uomo. Questi qui, uno addirittura mi ha detto, vuoi vedermi il cam? Sì, ho preso, acceso la camera e lui si stava, vabbè, era sul divano nudo e c'era il cacco che lo stava leccando. Ed è uscito brutto porco che non sei altro, fottuto, adesso ti denuncio, bastardo che non sei un altro. Sapere chi sei che sto venendo lì a buttare nella porta. Lui ha pure barriato. Oh. È vero, la iatta della Righetti, ci un zoo finitico, Bozoga. E quello con le, lui sapeva che ero donna, quindi lo faceva con tutte le donne. Quindi. Si vedeva solo la parte di giù, metà busto, la faccia non si vedeva più. Uno dei bucaccioni. E beh, certo, non era una persona normale. Anzi, bisogna avere tanto queste certe qua. Io non ho sentito a pelle quando una persona è in gamba o no. Tu, lui. Anche da come parla, io, questo non l'ho fatto, sono sempre un po' diffidente, perché ho visto troppo. Sì, figurati io che ho un po' più di aderente. Avanti, Falche. Bisogna stare attenti a questi chat, bisogna stare attenti, occhi, attenti. Ma quello del tanto sarà stato anche schifoso. Beh certo, non certo era una persona normale, quello che fa così. Io stavo pensando, se fosse capitato che invece che io sarebbe stata la mia moglie, mia figlia, cos'è, te li immagini. Vedi, è tutta una porcheria veramente, guarda. Io per quello... Ma mi piace il computer anche per quel motivo lì. Vabbè, diciamo che il computer si può usare per tante cose, non solo per fare queste cose qua. Io le chat, diciamo, le usate perché non mi nego di averle usate. Addirittura io avevo una chat online, si chiamava Sassari Online, insieme a un'amica mia. Organizzavamo incontri di chat, eccetera, eccetera. Ne sono venuti da Milano, da Cagliari, abbiamo fatto le cene, pizzate, insomma, un po' di roba. Poi da quando MSN è scomparsa la chat, non abbiamo più fatto un cavolo. E adesso questa amica mia è su Facebook e sta cercando di agganciarmi per entrare in una chat che vuole costruire su Facebook, ma non ha più gara di avere questi impegni di aprire, di chiudere, di fare, non ne vuole più sapere. Caparoccio, vabbè, lui, ognuno sa di sé. Vabbè, già mi divertivo, perché mi divertivo, ma già ho trovato gente anche abbastanza bastata, c'era un carabiniere che questa ricchezza quando parlava con me, lui la chiamava e diceva guarda che quello lì è maniaco, si rimorchia tutte le ragazze, questo e quell'altro. Questa qui a me non li conosceva ancora, quindi poi quando mi ha conosciuto bene ha capito chi era il bastardo, allora si la manda di non ammala. Beh, normale che sia così, no? Purtroppo esiste quella gente, purtroppo. Geloso, era geloso. Mi stava facendo la corte, lei me l'ha detto dopo che mi stava facendo la corte che dicevano che questo è un ex carabiniere. Io gli ho detto che la fiammella ve la seguivo io, beh, mi seguivo io. Ehi, sono qui, l'avete atteso la fiamma. Mi ha detto dagli l'appuntamento alla nave che ci vado io, che se facciamo andarci tu e ci facciamo quattro risate. Ah no, ma non penso ci sarebbe venuto, no? Sì, voleva venire a trovare lì. Voleva venire a trovare lì. Se vogliamo, non è che fosse questa gran bella donna, cioè io non mi bisticciavo certo per la bellezza, ma perché eravamo amici e lui aveva detto queste cose per discriminarmi, capito? Per farsi avanti lui. Ma ha fatto un gioco vigliacco. Beh, naturale che ha fatto il gioco vigliacco, così non si fa, si è comportato male per confronti. E io in chat, Luca, giuro, come se fossi, guarda, che non mi trovi più quale sei in chat, in chiaro, davanti a tutti, io parlerò di tutti, di figlio di Ghisio, di tutto di tanto, ma tu proprio sarà la sassarese, me l'ha detto. Oh, brutto figlio. Un po' come rincarica di Sarinca, perché questa rincarica me l'ha fatto leggere, capi, ha fatto il copia e incolla e me l'ha fatto leggere. Un attimo. Eia, hai capito, Falchè? Questa rincarica, quello che gli ha scritto lui, me l'ha fatto leggere. Ah, positivo, beh, è normale che tu ti incazzi di brutto, no, quando si scrivono queste cose qua. Vabbè, quella è pura bidacchieria. Una cosa del genere. Io sì, è vero che magari qualche ragazza la chiamavo la parte, non per fare amicizia, non per altro, non me la fottia nulla di fare altro, capito? E forse molta gente, forse molta gente l'ha capita. Io parlavo anche con questa tipa sposata, che il marito ha una cena della chat, mi aveva preso minacciato, mi ha detto attenzione Gianni a quello che fai, cazzo è quello che fai, io non so come niente di male. Stavo parlando con tua moglie, mi ha raccontato un po' di cose di te e basta, tutto lì. Il marito ha poco da dire perché l'abbiamo preso in gorra. Oh, bene, vedi che qualche cosina c'era sotto. E continuava a fare il gallo, capito? Gli ha detto, cose, mi ha detto, senti, va bene, così c'era lo stesso. Beh, normale, no, che alla fine poi gli sei così, no? Quindi lei ha cambiato rotta, ha girato pagina e ha cominciato a cercare gente che la capiva, che cosa si stava confidando con me, ma tutto lì, no, niente di più. Ma quella è solo pura gelosia da parte sua, dai. Eppure era anche una bella donna, anche se un po' bassottina, era con gli occhi chiari, i capelli biondi, ricci, era una bella donna, eh. Beh, possiamo di bella presenza, dai. Come qua sono rientrato, mi è scusato il telefono. Ehi, ai, ai, ho capito. Tanto chi da babbo mi ha arrivato un messaggio a me, ma mi sono solo pigui. Che cosa vuol dire, non ho capito. Non lo so, sta parlando al telefono. Ho capito. Lucas. Purtroppo, queste chat sono un po' strane, insomma. Io lo guardo sempre, li guardo. Ma tu vatti nelle chat di Sasha, di cercati una donna. Non è che la cosa più strana, se trovi l'ambiente giusto, ti piace anche entrare e aspetti l'orario per entrare, perché a me faceva così. Io avevo amici, mi piace con me. No, ma me l'hanno detto che ci sono quelli donne. Ah, e poi quando glielo chiedi, basta. Ma vai. Tu anche non devi passare in quarta, ti la giudizio, devi essere più... devi avere un po' di tattica con le donne. Se sai che alle donne piace una certa cosa, nel senso che magari le piace un uomo che le aiuti in casa, tu devi dire sempre che sei uno di quelli che aiuti tua madre a casa, a lavare i piatti, a fare tutto. Così si fa una buona opinione su di te e poi tu piano piano abbordi, no? Ecco, capito, siamo in fulmine, ecco perché la scarica. E poi alla fine, all'ultimo di tutti, lo sai. E alla fine richiede di riuscire a mangiare la pizza insieme, di berti un caffè, di ma qualsiasi cosa. Certo. E poi zicchia zicchia e bomba a mano. Mamma mia, lo ballino va blu. Falche, te rimani quest'antuno. Tu che sei stato per Bellizoma e poi sono uscirà qualche sera qua e a lì, fammi vedere, già ne do più tu. Cosa? Fammi vedere. Ti porto bene, sì. E se mi sei accaduto una femmina da mi porto bene, ma non ti posso far bene, no? Ma hai compreso, no? Ha detto fammi vedere, c'è fame. Ho capito, fammi bene, nel senso, cercami una donna. Oh, adesso fame c'è. Oh, oh. Fammi bene, bene, bene. Certo, fammi bene, bene. Cambiati, vabbè, dai, dai. Però ci assomigliavano come frasi. Ah, devi fermi. No, ho cambiato, no, ho detto giusto. Mamma mia, a me basta che i vecchi appena appena di strusciamento, è già, ben un... Tu mi vai bene. Pagata. Oi, oi, Antonio, devi andarci piano per la cosa, lo dice a me, che fugge dopo me. Un uomo è così, cavolo. Mi dici che non fate che sia questo, vuol dire che c'è da pensare male. Che abbaccata, ma col riccio bisogna mangiarlo piano piano, vedi? Già, il piso è tutto il riccio. La gente sì. Ma sei di proprio di così grassi, tu, siamo di cheggia. Ah no, la prima carica, ti so. Ah. Cosa bella è già, cosa bella è. Vabbè, non è però l'unica cosa che c'è al mondo. Ma te la racconto una storiella già. Racconta, racconta. Questo pastore è sceso da... dalle montagne, no? E tuo padre ha detto, guarda, se voi scendete dalla montagna vi porto a donna, no? E lui, cazzo, ma davvero lo fa? E io, benissimo, ragazza, che è spettacolare da vedere. Scende da Lupita sulla montagna, scende, capo. Fanno la porta da questa matracchetta che c'era, no? Fa quello che doveva fare. Tu riesci, coppa, canta e buona da prima la cena a coa. Anche tu ci vai a dire più. Allora, 40 anni se buona più bassa. Ma chi sono di 50 se buona più bassa? Arrivo via. Guardi, 80 anni schifo ti fa se tappero. No, 80 anni ti vado a dire tu. Da prima tu vuoi un ricordo muschio non ci sono mai piatti no e mi ha trovato i piatti quando senti questo profumino di pipì lo so che è buono mamma mia che schifo. Dimmi un perché. Ah, che cosa buona, quella poi c'è la ragnatela, è più buona quella, forse la ragnatela chi cazzo? No, il problema è che lì la ragnatela non c'è più, rimane il radio e basta. Ma la mocca? La mocca stamattina, vecchi. Ciao, che schifo, tu adesso dici che schifo. Se te lo mettono le faccia non è più che schifo. Ma se una vecchia l'ha rifiutato proprio a priori. No, la ricciattina io. Ma pure ti la cornicione. Un po' di meglio. No, già. Una green weapon al cordicelle. Torna a schietto. Allora, siamo entrati in un canale hard. Ah, no, è il canale porno stasera. Sì, è il canale porno. Non mi hai detto da te come prendermi. Con fauraggio. Adesso perché domani devi andare là e ci spostare da lunedì stasera, no? Vabbè, non me lo ricordai, sto cercando di andare. Però potevamo incontrarci stasera, Beh, io te l'ho detto, ti metto di no, cosa devo fare? Io ho detto di no, potevamo, così ti salutavo, Bastardo, Dici che mi do. Non si sa mai che non ritorna, non io te lo faccio. Una docca che dice che ha ammazzato la lametta. No, la lametta l'ho fatto sotto la gamba, però. Che bigodini, non te ne torni. No, bigodini l'ho lasciato, fatto le treccine. Le reali ho fatto. E allora? Ehi, che c'è bisogno da lei? Anche l'ho lasciato ben rasato, non so cosa da lei, come ti l'ha giù fatti. Ti sei da solo pisciato e risati, Come non te lo ricordi già? Ma te l'ho conservato, trai? No, ho fatto la parrucchina. Che regalo. Io me l'avrei conservato. Niente, vabbè, tanto c'è il ricciolino, quindi non si vede niente. Maledoso. Le passo la piastra io. Non lo sai che io ce l'ho a caschetto. Così è. Vicino alla lingua mia sono a caschetto. Francia di muove. Fate ricrescere Massimiliano, io dici quando sono lui sono bene. Ma se me ne sono rimasti di cuore io non lo faccio crescere. Che la minea? Sono così così, passami la macchinetta. Ah. Io l'ho sempre portato nasati. Ma c'è freddo adesso? La cuffietta, l'ho detto. Mi state portando sulla brutta strada, E sto parlando di capelli. Ah, di capelli. Ah! Te ne hai compreso. Ma già, domani ti vedo tutto il tondino. No, non mi vedono niente perché mica sto nudo, sto con le mutande. Mi metto il perizoma, ma sono le mutande. No, non ti mettono quel camice che dietro è libero. Non lo so. Ma in genere fanno così, ti mettono quel camice che davanti è tutto chiuso e dietro tutto aperto. Ma non lo so. Non so che dirti. Io so che per il ginocchio mettono una specie di gamba di pantalone con il collo davanti e basta. Bisogna vedere l'arco come lo mettono già. Speriamo che lo mettono al punto giusto. Io devo entrare tra una parte per l'altra, ma sta di rifare, che se entra nel lusso, mi segui, mi dica pane io mi do. E là sì che rimango paralizzato e c'è della rotella, che se di ha. Oh già, speriamo che non ti sia rotto un marrato lì, A me è sempre una rotella e truga. Mi state proprio inducendo a portarmi nei canali, boh. Magari sbagliano un buco lì, ma poi se ne tagliano nelle vertebre glielo mettono più chiuso dove c'è un buco nero. Così che ti hanno fatto quando ti hanno operato, la simile a perdere. Sì, a me sì, e a voglia, di più. Ecco perché siete tutto pimpante. Anche se piace. No, a me mi hanno fatto un'anestesia totale, quindi non me l'hanno infilato l'arma nella schiena, nel braccio. Nel braccio, e poi quando sei dormito non già sai cosa ti fai. Ma veramente mi sono svegliato e mi sono trovato tutto sudato, non so perché, in mezzo alle gambe. Sì, fa quell'effetto, sudi da tutte le parti, sudi di brutto e hai un medico che si asciuga la bocca in una maniera allucinante. No, siccome non riuscivo a svegliarmi dall'anestesia totale, allora è venuta l'anestesista e mi ha dato due cimbrambrani, capito? Ma no, finita. Tu, mano, che gridi? Si è asciuttato la bocca, buono. No, è davvero, no. Ho ritardato un po' a svegliarmi là dall'ultima operazione. Infatti c'era sempre l'anestesista vicino. È buona, eh? Ma la casa Maria Mortizia, Maria. No, quella che l'ha fatta a me è un bel carino. Anzi, anche l'infermiera, tutti e due erano carini. Molto carini, anche voi giovani, su 26 anni. Così. Allora, già, non ti devo fare un lavoro. Mi metto il cane e ci vedo a fare l'operazione. Lei ti fila l'ago e io le filo un'altra cosa. Ma dai, che domani non devi lavorare. Sei buono. E azzurro di sciabra e risate. Così, altro. Così, Una ciofra le zoofedriche, una ciofra, tante le mani. Ma bisogna prenderla così, ma se no tu domani fai tutto cagato lì. Già lo so. Troppo tempo mi hanno fatto aspettare, ma ci vedi. Più giorni passano e peggio è, io me ne sono accorto. Perché quando sei lì sta... rimane in tensione, capito? Magari c'è caso non mi chiamano più giorno per giorno, tu vi pensi, così alla fine ti fa. Poi magari tu adesso sei tranquillo, domani mattina non ti svegli, che vai lì e dici, cazzo, ma non devo operare, quindi un po' di tensione c'è sempre, là. Vabbè, quello è normale, ma... È normale. Ma non c'è quanto gli ho scassato le palloce telefonando lì. Non mi passavano mai quello che mi deve operare, sempre gli infermieri. Non c'è, non qua, non là. Poi ci ha tentato mia moglie a telefonare e ha risposto su. Anzi, veramente hanno telefonato loro, dopo che io mi rivolto gli ho stressati, mi hanno telefonato loro e mi hanno detto di andare domani. Non lo vedi, almeno ha fatto una cosa buona. Ma tua moglie viene a assisterti, sì. Allora, solo vado allora. Ciao, raga. No, vabbè, là, per quello c'è una cosa facile, da. Per loro è un gioco. Sì, ma per me no, vi sicuro a casa. Calmo, fai calmo, non succede niente. Ma già, tu quando ti sta facendo la puntura, metti il dito nell'ombelico con l'anestesista. Ah, cioè, mi hanno descritto tutto quanto, un amico che l'ha fatto la stessa cosa, ha detto che l'hanno fatto inginocchiare, mettere in ginocchio e con le mani in avanti, con le mani messe sul letto in avanti, in ginocchio, e come si è chiato per allargarsi bene la vertebra deve essere. Sì, anche fanno così. Mi fanno proprio così, perché così la vertebra si allunga, capito? Cioè, come morale di fare in voi la pecorina? La pecorina? No, in ginocchio. In ginocchio col sedere sopra i piedi. Così in ginocchiato col sedere sopra i piedi. Se io sempre che c'è la faccia, poi che mi fa male. E poi ti fanno... ti mettono un preanestetico. Ti passano mercurio cromo tutto attorno e ti fanno l'iniezione. La pecorina è quella. No, io la pecorina so che non la trovo. Cioè, in poche parole, già ti fanno toccare le tue ginocchia, devono toccare le tue dita, capito? Il petto. Con le mani tutte distese in avanti, quello serve per allungare la vertebra. E ti dirò un'altra cosa, che io ho tanti amici che l'hanno fatta e al risveglio il dolore non era nel ginocchio dove l'hanno operato, ma era la puntura, è dolorosissima. No, invece è mai il contrario. Beh, io ho avuto tre amici che l'hanno fatta e le faceva male proprio la puntura, capito? È quella che fa male, specialmente nel momento che sta entrando male, non lo senti entrando che è proprio dentro l'osso, sembra che ti stanno tracciando l'osso. A me mi ha detto che è meno dolorosa quella di puntura, l'ha fatta anche un amico mio stasera, ne stavamo parlando e mi ha detto che lui non gli ha fatto niente, proprio non si è accorto manco che gli abbiano fatto. E dipende anche dalla persona, Massimiliano. Comunque grazie per avermi, per avermi tranquillizzato. No, vabbè. è da persona a persona quella, va già. Ma buono, dai, ragazzo di belli, che io qua chiudo le trasmissioni, già, cosa devo dire? Augurone per domani. Dai, vai tranquillo che già non è niente di particolare, là. Vogliamo nuovo, stai qua. Ma buono, buonanotte a tutti, ciao Falchetto, per Paolo, Antonio, di nuovo Augurone già. A domani facci sapere cosa ti hanno fatto, se ti hanno fatto il tondino o se ti hanno fatto l'operazione. Di nuovo, buonanotte, io chiudo, ciao ciao. Ciao Massimo Idea, grazie. Grazie per gli auguri. Se domani sera mi sentite vuol dire che sono in vena, se no vuol dire che non mi gioco più. Vai. Cappa, ciao Massimo Idea, ce la riscontriamo le prossime. Ciao, buonanotte. Ah, ma se vediamo, buonanotte, le prossime, dai. Cimine, buonanotte. Avanti, ma anche. Ah, ma se vediamo, tutte le prossime, buonanotte. Cappa Rossi, dai. Buonanotte anche da parte mia per voi, ce la riascoltiamo. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ok, dai. Ehi, ciao, dai, almeno adesso ti sento più tranquillo, dai. Sì, no, no. Se dal momento che arrivi pulito mi sono tranquillo, poi andare vicini magari vuoi andare. No, ma adesso ci abbiamo tranquillizzato, dai. Non c'è problema. Ma tanto so già che dipende da individuo a individuo, perché io ho parlato con un amico mio stasera che ha fatto la stessa operazione. Lui mi ha detto che addirittura si è dovuto far dare la padella. Io ti dico una cosa, non me la sono stato vero. Innanzitutto ti fanno la pre-anestesia e te la fanno la NASA. Dopo che ti fanno l'altra positiva neanche te ne accorgi. Sì, ma già me l'ha detto, che mi ha detto, come dovete fare le ginocchiare? Lui ha detto che mi ha detto, la mia adesso me la fanno, adesso me la fanno, adesso me la fanno. Te l'ho già fatta, come già fatta? Non mi sono accorto di nulla, niente, proprio non ho sentito nessun dolore. Poi quando mi sono risvegliato un po' di dolorino a giro che mi sono trovato col freddo. E poi mi hanno detto che si sono messi in 5 o 6 cercando di farli fare la pipì. E io non ci riuscivo perché con questa gente, te immagini, questa gente che ti guarda, tu devi fare la pipì. Tutti guardando, questi infermieri, l'anestesista, cose. Adesso deve fare la pipì. Se quando fai la pipì non ti mandano a casa. Ma comunque, la parte di tutti gli scherzi comunque. Prima dell'anestesia c'è la pre-anestesia appunto, proprio perché non ti accorgi, cioè, sei cosciente ma non ti rendi conto di quello che stanno facendo, capito? Quindi al di là di tutto gli scherzi del cuore comunque. Ma io ho già avuto operazioni, quindi ho avuto un'operazione di calacchio, ho avuto un drenaggio aperto, ho avuto quel drenaggio aperto già mi ha fatto soffrire poco, mamma mia, ma mi faceva soffrire quando mi toglievano le gambe, non altro. Totale per un'operazione di pochi minuti non ne vale la pena, la mattina si cosa di giocare in un dente, la mattina si cosa. Infatti io dico che guarda tu qua non ci dai guardare lavorare di cazzo blu non mi devo pensare niente, ma le stampelle me le porto lo stesso Piazza, non si sa mai. Mi hanno detto possibilmente portare le stampelle, una fascia elastica per la ginocchiera, ma voglio dire una ginocchiera elastica per il ginocchio, rasato senza roba d'oro addosso, e c'è sta roba a metallo, non ha colore luce. E vabbè, comunque, tanto ci sta mia moglie tutto il giorno forse, quindi se non è che sto mezza giornata e poi vi dico di andarsene via e che faccio chiamare l'ambulanza la sera quando devo tornare a uscire. Ma la devo chiamare da stasera per prendere il servizio, però c'è anche altri servizi, non è che sta andando alla grande, stanno facendo anche il turno di notte, no? Sì, vabbè, un posticino perdetto, non trovo la memoria. Sì, ma li devo avvisare, capito? Ci sarà Luciano, quello che conosci tu sicuramente, perché ha dato disponibilità di notturni tutte le notti, dalle 10 a cose, c'è tutta la notte, ci danno le 7 di mattina, però c'è anche il turno prima. Infatti, ma gli altri che voleva rimanere lì, mangiarsi qualche cosa e poi magari riportarmi su lì, capito? Per non stare a viaggiare due volte. Infatti, se riesco a beccare l'ambulanza e mi porta a casa, non è meglio. Già sarebbe anche meglio il viaggio. Adesso vediamo, secondo come mi sento, secondo come mi sento se lo leggino sarà una ambulanza, ma non c'è problema, bisogna vedere se mi sento in vena di camminare per andare alla macchina e viaggiare. Andava bene, così almeno ci vado tranquillo venerdì. Vai tranquillo venerdì. Venerdì c'è la visita, là, da quella sottospecie di dottore. Ah, così breve era la visita. Eia, mi ha detto, ma ci devo andare con l'operazione o con la data fissata per farla. Due sono le cose. Adesso ci andrai già fatta, là. Infatti, così si cagliamo da domani. Non manco se può lottare un po' con l'altra, non tremo io di qua. Infatti, è che non me la tocchi la gamba operata, che non me la tocchi a chi se non è un cagnato a faccia. Tu diglielo prima a me, non tocca andare a toccarmi, cazzo, perché se no ti muovo un cazzotto, perché faccio. No, alto magrolino, Tu me lo dici? Sì, ma io arrivo bene, fa sempre bisogno dare un buon tutto e tu gli dici una cosa e dopo ti ne fili il macro di gatto. Ecco, allora io lì ci sta il computer, non rompere le palle, sono di come un computer a capo. Che bagare. Pachito, a me, poi c'è l'altro semo, 4-0. 4-0, ragazzoni, io vi saluto, dai. Sì. Bocca al lupo Gianni per domani, dai. Allora ci ascoltiamo. Vai tranquillo, non ti preoccupare. Salutone per Paolo, buonanotte e anche Azzurro, dai, tutte le prossimine. Questa è sì da parte mia. Ciao ciao a tutti. Grazie Forchetto, ci sentiamo domani sera, se tutto va bene. Com'è così Chizzurano? Sono stanco. Vabbè, dai, se sei stanco fai bene. Avanti, che è Paolo. Ok, ciao, buonanotte. Buonanotte, Forchetto, ci ascoltiamo domani. La mattina teniamo più presto, Ari 4, Marco Marte, ti già fa vedere. E allora, chi non ritengo già tanto? No, io mai l'ho sentito, perché a quell'ora perché cavolo bianco, buonanotte qualche, ci sentiamo tutto alla prossima domani, ciao ciao. Ciao Gaba, cazzo ma ancora sei, come se non dai il numero puro. No, perché ti devo dire una cosa, che mi ha chiamato lui, mi ha chiamato, e si fa fare a casa sua domani. Cosa mi ha chiamato? Aspetta che venga a dirtelo lì, dai. Santa miseria, cazzo, ma non è di me, deve rompere le palle. Basta, basta, ho già capito. Penso di a poco. Leggi un paio di cose. Per Paolo, Paolo. E tu passaci in orario di lavoro. La vergogna di averlo mi ha chiamato a me. No, perché ce l'avevo occupato. Io ce l'avevo occupato. Allora. Capo me l'avevo occupato. Ah, quel messaggio che mi è arrivato non lo so, parlare con Massimiliano allora. Non si può fare già, come dici tu, perché il capo arriva a una certa ora. Ah, così è, sì è. Allora, bisogna andare prima, lo so, purtroppo. Anche a me molte volte mi hanno svegliato dopo pranzo, quello che c'è da fare questo, quello che c'è da fare l'altro, e sono dovuto andare. E una volta mi ha detto poi mi ha rotto le piedi che c'era andare al ghero, e avevano acquistato questo negozio e sequestrato, e si dovevano pettare la roba che c'era dentro. Purtroppo quando si lavora è sempre corrente, da una parte all'altra. In aggiù fatto un po' che di via gelaria, smontando le scaffali, casse, di tutto. Poi posso immaginare. È così purtroppo, hai cosa fai, dici di no. So che stai andando, lo fai, basta. Sì, anche diciamo che alle 2:30 sono condurrato, alle 3:15 sono uscito, ho già fatto il tempo a mangiare, a cucare, mettere 5 minuti, ma subito è scittato. Non mi ha telefonato direttamente, mi ha fatto telefonare un altro socio, in modo che non potessi dire di no. E gli ha detto a mia moglie, dedica Gianni di mettersi le notte, scusi, ma con chi parlo? Ha detto. Si presenti, io non so manco con chi sto parlando. Sono, e l'ha detto il cognome, no? Mi dica. Perché già ne sta riposando, è appena tornato, mi ha detto. È una guerra, è una guerra, guarda. E io lo so che quando si torna si deve andare alla grande, c'è poco da fare. Soprattutto adesso, di questo periodo, che bisogna andare a fondo. Sì, a Natale, così, a Natale è così, così. E io non sai niente, quello là ce la fa fare il lavoro, sì. Ah, boh. So che non mi sono serrato e si è abitato una multa a 250 euro, quello già me l'hanno detto, però non so altro. Perché non stanno attenti facendo le cose. E io preferisco farmi la piedi se vedo che non passa, prendo il carrello, carico e vado, corrente e anni. Ma non rischio. Perché poi ti prendi la sfortatura e tu. Perché adesso ti faccio un burdone e te lo devi pagare. Ti fai danno la tua macchina, è tutto di casino. Quindi è meglio evitare certe cose, già lo sai. Ma tutti i poliotti fanno così, non ci vanno sotto nel pericolo. Se vedono che non passano, prendono, purtroppo lo devi fare a piedi, lo fai a piedi, cosa devi fare? Tanto faccio 50-20 a piedi, 120 a piedi, cosa dico, sta con un carrello, è come se si sia camminando, il carrello è leggero quando c'è le ruote che fanno bene, belle gonfie. Ok, però io poi succedono casini, succedono. Meglio evitare. Meglio la morte di essere pisciati. Già lo sai, già lo succede. Già è successo per una cavolata che non c'entrava in niente. Immaginiamoci per cose del genere. Sì. Guarda. Ma lì gli hanno detto di mettersi le mani in tasca, hanno fatto la colletta alle colleghe e gliel'hanno pagata loro. Però non lo trovo manco giusto, perché il danno si era fatto questo, nel senso che Edu, che ha pigliato il telefono in mano, si è lasciato le cinture, ha dimenticato con il telefono e senza cintura. Vabbè, beh. Invece gli hanno fatto colletta e gli hanno pagata le colleghe. Non so se fosse stato successo al contrario, se te l'avrebbero pagato le tue colleghe. Oh, no, no, sono solo così solidari con la gente del posto, capito? Non lì funziona. E allora? Con la gente del posto solo sono solidari. Con l'arte di cura, no? Se è stesso a un altro, no. Non penso, non penso. Vabbè, no, non è una cosa giusta, secondo me. L'hanno voluto aiutare, l'hanno voluto aiutare, io sono contento, perché diciamo che è una cosa che può succedere a tutti. A me la verità, una volta mi hanno beccato e mi hanno fatto osservazione i carabinieri, era appena spuntato dal parcheggio, l'hanno scaricato da questa famiglia, stavo andando a fare la fraconsegna e non mi sono lasciato nemmeno le cinture, perché mi ha squillato il telefono mentre stavo partendo. Sono andato a rispondere, girano i carabinieri nella curva, mi beccano senza cinture col telefono in mano. Come rimettersi da rispolare, almeno quei problemi non ci sono, appena che squilla rispondi che non ti beccano, sei tranquillo. Sì, ma devi stare sempre con chi c'ha cosa di Arecchi, la carità, no, no, no. La forata tu sei meglio di me, tanto più libero sì, meglio è. Io, guarda, d'inverno non sopporto neanche i giubbotti, a meno che stia piovendo me ne rugavo, perché mi viene male lavorare proprio col giubbotto grosso, camice sotto e tutto quanto, perché da noi vogliono anche il camice, li capisci? Vogliono il camice che sia sotto e giubbotto sopra, e quindi c'è il camice tutto un altro infuso, un giubbotto infuso, va, a carità. Caramba, è un casino. E un po' di volte ti capita che non ti salvi manco le mutandocce, tutti infusi bruissimi. Perché poi, cioè, sei sempre così, ti ti porti dentro il rapparato, questo è un dilemma. Io a volte invece ho consegne, a volte c'è una levante da trappomettere, ma a volte ho consegne una vicino all'altra, per dire faccio via delle linee, ne ho 3-4, mi fermo prima da una, scarico una e mi fondo con ghiscia, da voi foto 50 metri e per l'altra, e torno a farà, sempre con leva. E a volte si dice, ma è bagnata la scatola, chi la scatola signora? Io guardi come sono. Se è bagnata, allora che ti dica, ha avuto un piccolo attacco pure ultimamente, che un tenta di per non dire la parolaccia, certo, dice che rubano tutta la zara, colpa mia non si sta piovendo, io ho detto metta un qualcosa mi pulisco. E subito prendere un dopo, di capire se fare il studio, bomba. Vai, vai, dove stai andando? A me una volta fai tu cosa, che lo fare di quello caro, dice che lo fai il rumore di caccia. E gli ho detto, ma lì ha mai lavorato, guarda questo carro non c'ha le gomme apposta per non far rumore, che rumore fa? Gli ho detto, è vuoto, perché se sento col carrello vuoto, che rumore può fare? Ma fa rumore questo carrello, non dobbiamo farci disturbare dagli altri, questo e quell'altro. Ascolti, ma lì ha mai lavorato? E lui mi ha detto, io sì. E cosa facevo? Lavoravo in ufficio, ecco perché non le capisce le cose. Vada in Alfa, ti ha da qui, è proprio chi su Bahia. Cosa faccia? E gente che non riesce a capire certe cose, hanno fatto come lavori pesanti, sono stati sempre in ufficio chiacchierando, col colleghi, facendo. Io a volte ho certi uffici, ne vedo i colori. Thank you. Fai riprendere a qualcuno. Avanti, faccela. Riprendo io per chiudere. Sto scendendo bene, ma è troppo alto secondo me. Come è troppo alto? Troppo alto di modulazione, abbassa per a per. È sempre la stessa regolazione. Ho buscato delle capsule io per fare. Che sono veramente all'ughinogene. Davvero, per me? Ne ho anche una. MC60. Ovvero? Va. Va bene, dai, io devo salutare. Auguri per domani, ce la raccontiamo, fammi sapere, capisci? Ce la raccontiamo tutta domani, dai, voglio sentire domani. Ciao, buonanotte. Buon viaggio per domani. Ciao, Bruno. Grazie, ciao, per ciao, buonanotte. Avanti. Io ci rimango un altro foggia. Se vuoi rimanere. Vabbè, c'è un problema. Stavamo dicendo poco fa, stavo dicendo che tu vai a fare prendere gli altri. Sì, sono sempre rompiscatole, perché mi viene sempre qualcosa da lì. Ah, sì, di quelli lì ce le trovano. Se le trovano spesso, di quelli lì. Ma io a qualcuno glielo ho fatto lo scherzetto. Adesso già. Perché sta, io non posso sapere di sta niente. Se me ne ha rompito le capo quando si trova niente, mamma mia. E poi tutto quello che mi ha raccontato l'altro giorno, io se l'aveva detto a me, come te l'ha detto a rompermi le capo, l'ha detto tu pugni a capo. Molte volte si evita perché stai lavorando, ti guardano il furgone, ti prendono la ditta, magari telefonano, capito, tutti i casini. È meglio sempre evitare, no? Però una volta gli siamo andati a quel paese, a quello lì, ci è rimasto lì proprio di stucco quando gli ho detto così. Vai a dirmi, c'è quello che dice, attenzione a rompere le scale, chiuda per il portone, ma non c'è più la lice. Io so, a fare ogni sensazione di tutto questo. No, fare chi si dà con in bocca, è che non riesci a arrivarci da solo, io ci arrivo da solo a fare, io come trovo lascio le cose. E la chissà cosa che giunta che siamo fermi, ma è colpato, ha telefonato l'altro e si dice che ha rotto il vetro nelle scale col carrello, cazzo il vetro è in alto, il carrello manco ci arriva nel vetro, e cosa faccio, fuoco col carrello per... E lui mi ha detto, questa lì ha detto che lo vuole pagato, che prima di andare tu non era rotto, però ha trovato rotto. Vabbè, caccia piccarria, manco fatta accusa, l'ha già fatto un'incanda, lei la bambina di conoscenza, non si permetta mai più di dire una cosa del genere, perché discrimina le persone, gli ho detto. Mi chiedo anche scusa perché vada subito a dirlo, ma io ho visto che quando lei ha visto male, cosa si crede? Io metto il carrello in alto per spaccare il vetro, ma sta scherzando. A parte se con le barriere di carrello, allora si va di frantumino, si va di si schiacciato. Beh, fatto sta che questa qui ha detto, mi scusi allora, no, non mi scusi, telefoni alla ditta e dica che non è vero quello che ha detto, perché sta discriminando a me, come mi hanno chiamato in ufficio per questa cosa, capito? Lei è andata a tentative, compreso, se è stato lì, magari è stato lì, si è compreso. Gli ho detto, magari un colpo di vento ha sbattuto la cosa, la finestra, perché l'ha aperta, è capace che si sia filato, ma si ricorda del bar del carrello, tutto in ferro. Ma se con il bar del carrello, perché faccio tante zitte, a buon ma le truppe, come ho collega una volta ha fatto una, allora non fa più, cioè una di chi non fa più, ma l'ho visto io facendo una cosa, questa qui gli ha detto cosa, me la porti su la roba, e lui gli ha detto, signora io non è che devo fare le scale ogni volta, c'è un po' scendere anche lì a prendersi la roba, no. No, no, ma non porti su, vabbè, ve la regata da sopra, come ti ha salvato una Iana, era un vaso di piatti, e Brigetti verrà, e non era proprio un palazzo, era, una, diciamo, di quelle scale esterne che ci sono nelle villette, praticamente ci aveva tutti i vasi attorno, no, con le piatti, e tutta la banda di piedi era un vaso. No, ecco, se volevo di vedere un vaso, la iatta si è sussata e è andata nella sua base, era fatta una burla, si è scioccata, bucca, che si è fuggito. Ah, l'ha accusato, così. No, non ha accusato nessuno. Te aveva già chiuso, no, quando lui l'ha fatto, aveva già chiuso, magari si è entrata dentro, ma con i zocchi il tisci. Come dici, ti ha fatto fasciare. E lui era di puro, è la iatta, è già sussata, ne aveva fatto tutto. Dice era rispettoso, quello che c'era prima era un bel rispettoso. Una volta sono andato a dargli una mano, io perché non ce la facevo, sono andato a dargli una mano, questa signora la prende e mi mette in mano, allora c'erano le lire, ti ha messo 200 lire in mano, e ha detto, questa è la mancia, era un bambino minore, vedi, dai, dai, lui si è inchinato e gli ha detto, la mia, tu amore, mi comprati le caramelle. Ma dove? Dice, perché gratto poco? No signora, guardi lì. Bisogna mi barro culo. Desidere voi camera dentro. Attennati. Dice, quando mai vi da 200 lire, cazzo? Attennati. So che ero figlio a comprarsi il caramelle, no. Che non ci bisogna l'elemosina sui lì. Tutti quanti davano 5.000 lire, 2.000 lire. Anche 1.500, ma quando mai 200 franchi. Poi è successa una cosa un giorno, prima mi aveva dato il zero di marcia, poi questo qua ha richiamato, dice che si era sbagliato, eccetera, eccetera, e mi voleva da un euro, io gli ho preso e ho detto no, no, guardi, non fa niente, se lo tenga, vai, no, ammara, vai. Che ha sbagliato, ci avrà ripensato, ma poi si è levato troppo. Ma non ci si comporta così però. Oramai nel guapo basta, cosa? C'è un fiducioso. Vabbè. E le dovete riportare indietro? Dove? No, non ne avrei portato un che lei che si riprende. Ma io invece, siccome sono un signore, siamo passati già abbiamo detto, hai non la mano. Avete bacino, l'ha abbriato la moglie, l'ha detto, ma cosa tanto le dà, 20.000 franchi, ah, tenati. Sì, l'ho mandato. No, non sono cose che si fanno quella. Vabbè, non mi faceva né caldo né freddo, va. Sì, tu. Spieghiamoci, io preferisco quello che dice grazie con sorriso, piuttosto che quello che ti dà una mancia che te hanno preso per comprare anche a te gini. Certo, eppure capitano queste cose. Se qualcuno ha detto, giro 50 centesimi perché la bomba è troppo cara. E non faccio il pannaggio, vero? Tenga, se li tenga. Ah, ah. Questa gente esiste. Guarda che io ho visto tutti quei gente miserabile che ti incolpa di una cosa che non fai. Qua, di tutto di più. Già lo so, sono tutti i posti così. Io una volta a questa signora, mi ho detto, signora, io in casa devo mettere la sulla porta, io non posso entrare in cucina a mettere la roba. Capita che col carrello urto un vaso, lo spacco, o urto qualche altra cosa e la rompo, mi tocca pagarla. E a me che me ne dai su per pagarla? Non ho capito. Dice, sì, poi sono stato operato alla schiena, ho capito, è stato operato alla schiena, però gli dico una cosa, se rompo qualcosa lo metto in responsabilità. Così sono le cose. Purtroppo ne abbiamo conosciuto gente, guarda, a passi fondi a vero. Guardi chi stava insistito di caricare la bomba in macchina e voleva. E tu capa per appena non so che cosa vuol dire la macchina pagata. No, e invece abbiamo una volta sono venuti dei turisti, sono venuti dei turisti d'estate. Io di mia spontanea volontà, siccome avevano un camper, avevano fatto tre carrelli di spesa, di mia spontanea volontà sono andato ad aiutarli, perché ho visto che erano dei clienti buoni, che avevano fatto una certa spesa, quindi devi essere anche cortese tante volte. Mi stavano dando una mano a caricare tutto quanto, si è girato il marito, si è avuto le mani in busciacca e mi ha dato 20 euro. Cazzo, tu usci, vi godi. No, lasciate, no, vendi, e me l'ha regalato. Dice, poi quella la gente hanno dei ragionamenti un po' diversi, sono molto signori sono, pigliane, muovono mai in buccia che pagano, non stanno lì a girarla. No, siccome c'hanno questa dispensa, che stavo un campo, era un bel mano, niente, lungo, c'aveva questa dispensa sotto, come una cantina, da. Ci sta tutta la roba di provvista, no? Che mettevano tutta quanta la roba sotto, questa dispensa, dentro una cantinetta piccola. E poi sopra ci avevano le cuccette e tutto quanto. Ma se l'ha scintata dove è andato prima, se l'ha lavata al lavaggio, perché lui visto sono passato prima due o tre volte, si hanno lavato il camper al lavaggio. E dopo si hanno fatto la spesa, si hanno ricaricato, servito di tutto. Si hanno preso acqua, vino, tutto quello che gli serviva, pasta. Probabilmente quelli cucinano nel camper e risparmiano solo di andare al ristorante. No, poi non vanno a mani vuote neanche nei posti. Ci vanno di dinara, dove ne pagano e buco. Ah, quello sì, quello sì. Però già è vero. Ma diciamo che c'è tutti i tipi di gente, c'è quella che ti coccola addirittura. Io c'è una signora che non è che sia una persona ricchissima, cosa, però è ricchissima e brava, ti fa entrare, dici piace, riposati 5 minuti che hai fatto le scale, vedi che ti faccio il caffè, e va a dire un caffè, se ho tempo lo prendo, se non ho tempo dico no signora, guardi, no mi aspetta, allora ti do qualche altra cosa, mi un bite, una cosa, mi offre sempre roba da bere, e più bisogna di mulla mancia. Anche io ne ho così, gentile, il caffè purtroppo no, molte volte mi vogliono fare il caffè, il caffè purtroppo non lo prendo perché cioè sono sempre in fretta, però la marcia ti la dà. No, ma anche io, se devi non mi siedo, ma tu, se lo sta facendo che magari ha appena finito di farlo, cosa, sì, se ce l'ha sul fuoco va bene, ma se no non mi vengo. Io non leggo di te, informate se sono come se te, una cosina affollata, ti telefono, riserve quello, riserve l'altro, l'altro vuole cambiare il neo, quello vuole. Insomma, ne devo ammire di cose. Ma poi come è capitata una cosa? Andato lì, a casa di questa studente, e mi ha detto, sto facendo il tè, se mi vuoi fare compagnia. Ho detto volentieri, guarda, ho detto, però purtroppo devo correre, non posso. Non sei tranquilla che l'avrei fatta volentieri. E cos'è la giovincella? Era studente, avrà avuto più o meno la mia età. Ma studente o studentessa? Studentessa. Io stavo con la casa studenti. Noi avevo preso che era maschio, perché lo studente è maschio, lo studente è fede. Diciamo che a me, se mi fa una cosa volante, devo voglia la prendo, la verità. Non rifiuto, se ne voglia, mi dice, te lo bevi un bitter già, mi fa compagnia. Va bene, grazie. Il bitter fresco d'estate ci sta bene. Guarda, adesso è fatto così, è perché sono sempre corretto, perché altrimenti se a me lo chiede una donna, rimane io rimango, se me lo chiede un uomo no, dico di girare a largo, no, così, vai, vai. E poi c'era mi è capitato una volta di sera, io sto alle 7:30, alle 7:20 c'era una crocenia un po' grossa. Siccome i miei colleghi sono resti, perché sennò c'era quello che rimaneva sino alle 9, poteva fare la benissimo. Dice già c'è una consegna cosa da fare, beh, io me ne sto per andare. Mi ha detto, vabbè, ci... dai, già facciamo in fretta, andiamo insieme, se non poi tocca andare da solo, vabbè, ti devo carichiamo tutto. E andiamo in questa petroliera, una petroliera, come si chiama, turca. E abbiamo scaricato casse di frutta, carne, di tutto, bibite, il fornimento per tutto il mese siamo fatto, un furgone di roba, ma pedane barone. Erano due pedane e mezzo di roba. Fatto sta che ci hanno fatto salire su questo. Ho detto venite ragazzi, mi ha detto quello lì che stava scaricando che ci voleva il comandante, ha detto ma deve essere per qualche, per pagare cosa. E ci ha chiamato su nel suo ufficio e cazzo, era tutta pronta ben fatta, tutta piena di tappeti russi, tappeti orientali, tutti tutto tappeti era. E poi ci ha portato nel suo ufficio e ci ha dato l'assegno, ci ha fatto l'assegno e poi ci ha portato in questa specie di salotto, tutto quanto bello rosso, tutto il raso, tutto quanto qua, sembrava una casa, una casa. E ci ha offerto il tè loro, il tè che fanno loro. Abbiamo bevuto il tè con questo mio collega e poi ci ha regalato una secca di sigarette turche a testa, ma non si ne butta né fumata. Sono un po' potenti con le sigarette, sono piccidiare. Ti fumichisci, oioia. Ma comunque, sono stati abbastanza gentili, dai. No, no, sono stati molto ospitali, la verità, gli ho toccato la mano quando ne sono andato tutto qua. Un'altra volta invece ci è capitato sopra un peschereccio di pesce spada, ci hanno regalato un pesce spada, ce l'hanno tagliato in due, metà a me e metà a mio collega, di quelli piccolini però, di quel pesce spada piccolo. Che marro. Piccoli, parlo che sia stato un 7 kg, 8 kg, Ma come si fa il pesce spada? Si fa a tranci, lo puoi fare sia arrosto, in graticola, si fa a tranci come le fettine, no? Però più grosso. Se lo vuoi condire lo puoi condire con l'aglio prezzemolo, se no lo fai così, con il sale solo, sopra, lo giri sulla graticola e lo fai arrosto così. Oppure lo puoi fare in forno con la vernaccia, aglio prezzemolo, un po' di vernaccia sopra e un po' di limone spremuto. Non a pizze perché se no te lo fa male. Spremuto sopra, gli fa una specie di sughetto con limone e è un bombo. Pesce che non ho mai mangiato il pesce spada, dico la verità. No, io già l'ho mangiato, ho mangiato anche il lattante di tonno, l'hai mai mangiato? Tonno sì. Il lattante proprio, la mammella proprio del tonno. Mi sembra quello lì no. La bottarga sì, già l'ho mangiata, ma quello lì no. No, tu, il lattante di tonno è la mammella praticamente, no? Che mammifero il tonno e la fai a fettine vai dai vetri è tipo così granelli tipo il cervello rimane morbido così è buono di sapore si sente una mosca stanotte ho chiuso tutta la refrigerata si sente una mosca. Ah, così si fa. E allora, ce l'ha pure tagliato qui sopra quel schericcio. Avevano il dragone, il tuo capo ti l'ha tagliato in due, l'ha tagliato un capo, mentre sulla testa la volette, no, no, è cosa me ne fosse, cioè è bella, ma dopo me la metto. E beh, la testa non si mangia, mica è buona. Ma si imbalza, ma la testa del pesce spada, come figura, dai. Di solito la trovi nelle pescherie, così. Ma lo so, l'ho vista in balsa matta. L'ho vista anche in una casa, non me lo ricordo l'opera. No, in casa ci sta come capori a merenda, a meno che sia una casa di pescatori, che ci mettono, i pescatori ci mettono le reti attaccate al muro con le stelle marine, i cavalucci marini, non l'hai mai visto in casa di pescatori? Cioè, a meno che non c'è stato pescatori, perché c'è la cosa in balsamata, cioè. Non mi ricordo adesso dove, però l'ho visto così, eravamo in balsamata proprio. A me un pescatore mi ha fatto la retta a Lumaluccio. Vero? Beh, te la faccio vedere, ce l'ho macchina. Funziona. Funziona. Insomma. Da quando me l'ha fatta si dice. È un bel tempo fatta. Me l'ha fatta già da un po', me ne ha fatto una per caso, uno da portarmi attaccata presso, da qualche parte, e una me l'ha fatta dalla mano. Io non so manco come ti sia questa cosa. La mette, piccola, con una corda che chiude, tipo sacco, rimane, così capisci, e si attacca al cambio delle marce o... dove ce l'ha attaccata io, al coso del microfono, dove metto il microfono. Lì l'hai attaccata. Mai vista. Già c'è. L'ho attaccata lì e l'ho lasciata lì. Cavagala. E quella è una specie di porta fortuna, per i pescatori. I pescatori usano molto queste cose qua. Ce l'hanno le portachiavi nel cambio della macchina, attaccata allo specchietto retrovisore centrale. Guarda, non me ne sono mai accorto che c'era una cosa del genere. Allora c'è un altro nuovo, ti prendi in contravvenzione, dai. No, più che altro dovrebbe proteggere dagli incidenti e dalle contravvenzioni. anche da quelle cose brutte. Comunque, loro ci tenevano perché mi hanno visto una volta che mi ero fatto male. Ero caduto dalle scale, mi ero fatto male e stavo continuando a lavorare. Questa signora mi ha chiamato e mi ha detto: Gianni, vieni dentro, fatti vedere cosa va, intanto è solo una mamma e anche il tabaido non è nuda. Mi ha abbassato il calzone e mi ha detto che c'avevo un lipido un bel grande, ero tutto quanto graffiato con un lipido un bel grande. Dice, vattene a casa tua, che tu non sei in posizione di travagliare. Adesso ne matto, ma che va lì, i pulchi. Come hai preso il colpo. E certo, fate un bel male, una cosa del genere. Tanto tu immagina di tirare il carrello con 5 casse di acqua e 2 cartoni pieni di roba. Tirando il carrello, come ho fatto forza per tirarlo su, ho scivolato con le scarpe e ci sono uscito sotto io e il carrello in Natale con tutta la roba. Io una volta mi ha giubilato una zampata a casa di una femmina, o io, non è che mi ha avvisato, era fendeva, era di quelle villette a schiera, no? Che ci sono nella zona nuova di Polo Torres, che hanno quelle pietre in coso, proprio color mattone, due mattoni proprio color mattone, che sono larghi. Come se uno tappirai sul carrello, adesso sono scivolato, mi sono battuto il sedere e la schiena, manca. Io per non fare brutta figura, si dice, Gianni, ma ti sei fatto? No, signora, non c'è problema. Prendo, scarico la roba, quanto ce l'ho fatta a scaricarla. Si scarica tutta la roba che è dentro il furgone. Oh! Furore, è un casino quando succede così. E poi quel cavolo di carrelli fanno più volare anche. bisogna dare molta attenzione quando si lavora con quei corsi. Io non le posso molto vedere, infatti io non li ho mai usato, mai. E tu vai a fare un lavoro un pochino veloce, non è il carrello no, che ti fa scivolare, se tu quando fai forza c'è peso sul carrello qui devi, lo sai benissimo, devi fare forza per tirarlo, se stai salendo su un gradino e sei sopra tu con i piedi per fare forza col carrello e non fa dritto il piede al terreno che scivoli, allora sì che strampi malamente perché hai un bisogno di un carrello in alto. Una volta solo mi sono trovato in difficoltà e questo signore mi ha dovuto aiutare perché non riusciva a tirarmelo su il carrello, avevo paura di rompere la roba, allora gli ho detto se per cortesia piano piano me lo sollevo appena appena di modo che uscissi fuori e mi ha aiutato questo signore poveraccio. È imprevedibile quando usi una roba del genere, è imprevedibile che ti possa, cioè ti succede, perché se non ti attacchi bene, oppure io sono scivolato un sacco di volte, un sacco di volte me la sono scampata, una volta no, mi sono fatto male alla mano come ti sono caduto. Poi quando c'è la bombola sopra su, tu devi stare attento, la prima cosa da fare è lanciare la bombola subito, tipo che non ti ingaggi in naso. Ah, quello lì è andato a fare i cavoli suoi, io mollo tutto e non me ne ha fatto niente a me di gradino e cose, non mi ha chiuso ammazzata. Quando vedi che c'è il pericolo molli la bombola, è poco di fa. Anche perché se ti cade questa bombola non è massita, è pesante. Io un bel di volte, la sessione volta sono caduto dal furgone, lo stesso era già chi pido, dicevo un medico con 16, sono caduto dal furgone, ma hanno visto come si chiama? La bussola, quelli della bussola, è una casa famiglia dove porto la roba, no? Stavano venendo per darmi una mano, che avevano visto volare dal furgone, si è fermato pure una macchina che stava passando male, si è fatto, no. Grazie lo stesso, ma perché ti accompagni a farti vedere? No, ma è perché si è caduto male, ti ho visto, si è caduto di schiena, scivolato di brutto. Eppure io già, vedo una volta sembravo fantozzi. Comunque ti sto dando molta attenzione, prima non succedeva un po' più spesso, una volta stavo scaricando, e ti sono uscito, cioè ti hai presente Fantozzi, ti sono uscito io con la bombola attaccata direttamente alla scrivania di negozio strisciando. Eppure c'è la mia vita, quindi da ridere adesso, però nel momento magari ti sei fatto un buon male. Già succede specialmente quando uno è in fretta e fa le cose veloci, cerca di... Io faccio dei movimenti meccanici che proprio guarda, non mi rendo conto, apro lo sportello, attacco, faccio, blocco lo sportello, prendo la roba, la carico, vado, riscendo veloce, richiudo lo sportello, non mi dico se ti dimentichi di pure lo sportello abito. Mi sono messa, no, non mi sono fatto male. Mi sono uscito così 300 come te li guardi. No, mi sono messa a ridere, basta. Ma ci sono dei momenti che a ridere non ce la fai, tipo la volta che ho sbattuto la schiena nelle scale, quella volta lì non riuscivo a respirare a vera, stava piovendo da dirò. E io ero con le scatole da tennis, non ero ancora entrato a lavorare, mi ha detto mamma, e l'aveva mamma ancora, mi ha detto quando scendi giù da Irene, passa da Irene, riporti questa busta che vi devo dare. E erano giornali che si scambiavano, dopo che mamma le diceva le mandava a mia sorella a leggere e viceversa. Allora si accompagnava, rimaneva i giornali, tutti e due si leggevano per dire io compro oggi, tu compri con la caffetta, ma dire sai che si legge di me. E se li scambiava, allora uno leggeva prima uno e poi l'altro si girava nei giornali. Ma una cazzata, adesso sto facendo tre gradini nel portone, sono andato a scendere, l'hanno bagnato, l'ho scivolato con le scarpe da schiena e si è sbattuto come forte la schiena, ma forte barone. Mi manca più respirato, mi stavo girando attorno a me, se vedevo gente per aiutarmi e non c'era nessuno, mi sono adagiato su una macchina con un acquattone, non me ne fregava nulla di bagnare, non riuscivo manco a respirare, ma allucinante la caduta. Poi mi sono ripreso piano piano e sono andato a lavorare e dovevo entrare 5 minuti dopo a lavorare. Sono andato a lavorare alle 5 e mezza. Passa mio cugnato e mi fa zì. Dopo la sedia a sedersi, come dire che non ero venuto. E se me la deve fa piacere. Se lascia perdere che sto, è una battuta. Dai. E gli ho detto, ma tu non lasciare perdere, perché guarda cosa c'ho io, cazzo la maletta mi dice, ma insomma, come te lo sei fatto? E gli ho detto, io sono caduto nelle scale, ho sbattuto forte la schiena, ma lavorando, ho detto no, 5 minuti mancava ad entrare, quindi risulta un infortunio sul lavoro lo stesso, perché prima, mezz'ora prima, se ti fai qualche cosa, risulta bene. E lui mi ha detto, fa una cosa. Ritornatene a casa e vai subito al medico a farti vedere che forse quello lì è da aspirare, che è un bel grano. Ne sono andato al medico, mi ha detto, no, credo che basta passare una pomata. E ho detto, ma è sicuro, guardi che a me mi fa un male. No, no, con una pomata se la so, in 15 giorni non c'è più nulla. O passerò 15, 20, 25 giorni, questa cosa diventa gialla, verde, azzurra. Io mi sentivo un bel debole, mi faceva un bel male. Un giorno ero con l'ambulanza all'ospedale. Entro, porto l'ammalato, quindi credo dottor Carter, non si è commosso, ma non è che mi potete guardare a me adesso, dice, cosa ti sei fatto qua? E dice, ma non te l'ha visto nessuno questa roba, quanti giorni è successo? E sì, sono passati una quindicina di giorni, ma il dottore mi ha detto che passava con questa pomata, ma non mi è passato. E fatto sta che... praticamente mi ha fatto un foglio subito e sarò operato in casa, in urgenza. Io non credo, già. Lontano da era, chissà cosa. Cioè, un giorno io ho fatto un volo di almeno di 2 mesi. Io sono arrivato a terra senza farmi niente. Tu vuoi 2 mesi? Non deve essere così. Per dirti poco. Ho preso la rampa di sopra della scala e ho fatto il volo. Ho fatto la bocca là. E ci sono sceso terra con i piedi. Però non mi sono fatto niente. Un giorno però mi sono fatto male alla pancia. Aggiubigliato con quel po' in pancia. Mi ha durato ore. Però alla fine dopo una mezz'ora mi è passato. Sì, quando è così, magari mi persiste io adesso, il dolore al ginocchio c'era lo stesso, come cambia il tempo, tutto quanto, poi ho detto l'altra volta lo stesso, ero seduto con l'altra e poi mi si blocca il ginocchio, ma l'ha fatto una volta solo, però me l'ha fatto, e se lo fa una volta può farlo anche dopo, anche lavorando, ti si blocca lavorando nelle scale, ti fa dei frappati, non l'hai mai capito. E già lo so, già. Non lo so, comunque... Qua ci sto dando molta attenzione perché non ho voglia di farmi male. Se è successo quello che è successo quella volta, non per colpa mia, perché era scivolato nelle scale, sicuramente ci hanno buttato olio a mala sorte. Una volta avevo visto rotta la bottiglia di olio, perché stava a cassa, l'olio, tutte le scale sporche di olio, nel casino. Si è dovuto far dare uno stagio con la signora che ha fatto la spesa, ho detto se apri l'olio glielo porto, raccolto tutto quanto, poi mi sono messo a lavare le scale, un casino, guarda, un casino. Dopo non esci, più lavo più e più scivola, mamma, è terribile l'olio. No, ne ho messo della farina a asciugare prima. Mi è nata della farina quella signora, subito asciugo questa farina, sa che qualcuno scivoli, così se la assorbe, raccogliamo prima la farina, poi ci penso io a lavare le scale. No, se io non ho ficcato, perché c'è, mi è capitato, mi si è girato il carrello, non ne ho colpa io. facendo la curva dell'esca, le mi si gira e me ne fare del vento. E fatto sta che si è rotta solo una bottiglia di olio, ma un casino che ha fatto, ancora buttando tutta la roba per dentro, qua, un casino. Un po' è sì. A un casino niente come padre. Uè, capo, ma che si butta la farina per ottiare mattana a cavallino. Devi fare almeno due o tre risciate. Vabbè. Io gli ho dato la prima passata, poi invece ero giusto a fare il resto. È sempre il coso che magari cada qualcuno e ti deluci perché cazzo hai fatto più danno. E io la ragione. Un po' è disegno, l'olio è micidiale, è una cosa micidiale che già lo so qui. Beh, questa signora qua siccome è ignorante. Questo era olio extravergine e mi è caduto tutto di fronte alla porta di casa sua. Mi ha detto che gli avevo portato il male in casa. Quella dica cosa abbiamo fatto più male che mi hanno detto, che gli ho portato il male in casa. Dopo un po' gli ho morto il marito, lo sai, è venuta la denuncia, mi ha intravisto. Lei mi ha rotto l'olio e mio marito è morto. La signora ha detto, e suo marito non è morto perché ha rotto l'olio. Ci aveva il tumore, da quanti anni ce l'aveva signora? E da 3-4 anni. E allora non è morto certo perché ha rotto l'olio questo ragazzo, non c'entra nulla quello. Però molte volte, sai cos'è, quando te lo dico in anticipo e poi succede lì è un casino. Perché siccome non succede nulla, smentisci quello che ha detto, ma anche perché mi succedeva di visto che c'avevo ragione io. Che se ne intendia, Sì, lo sapevo, perché aveva il tumore il marito, prima o poi sarebbe morto, c'era un tumore, non so se da 3 anni. Brutta fine, ragazzi. È terribile. Una signora che la conosceva, cioè, dei suo Marco Paolo di fascia di Rosso, non marito con la tumore, 3 anni. Oh, ho visto che mio marito c'era morto, il signor Vizziello era bravo, bravo uomo. Pescatore. Era un bel gamba, anche il figlio è un bel gamba, quando mi vede mi ferma di strada. A lei ce l'accompagnava addirittura, l'altro babbo faceva la spesa per aspettare il tavolo delle vigne, no, se la trovavo diceva, io signora che vi do un passaggio, prendevo e me la caricavo in forno. Per non farla andare a piedi. E allora l'anziana, era una donna anziana, ma di quelle vecchie stampo che hanno 1000 credenze, capito, napoletana, poi ti puoi immaginare. Sbaglio, se non posso immaginare. Dove sono già, non si sa. Le 11 sono. Cara, quando pochino poi io chiudo qua perché... altrimenti non siamo più parlare, ma è una troppochina poi chiusa. Cavagava, non c'è problema tu. E comunque ricredi che trovi tutti i tipi, e trovi quello buono e quello cattivo, come stavi dicendo tu su internet, è la stessa cosa. Trovi quello che ha detto al divenzio, che quando torni dopo magari a fare figli o roba del genere, c'è manco male, si è tornato tu già che... Chi si rivela, li bacalizzare, la roba me la regava in Italia. Lì mio marito dove andava a mangiare, non li poteva fare un pranzo, anche io conosco il tipo del cliente, no? Per dire, so che, per dire, signor Cano, lavora alla zona industriale, torna a casa, mangia e riparte, e arriva a lavorare. Invece sta sedendo alla messa, magari se torna a casa, mangia e prepara il pranzo per mezzogiorno, e lui mangia e poi torna a lavorare. Fa l'orario di cantiere, praticamente. Invece i miei colleghi se ne sbattono di queste cose, io cerco sempre di dare priorità a chi ha bisogno di più, no? Per dire, so che quello lì deve uscire in figa o l'altro che magari mi dice, già, fai di tutta la gambina prima di tutto, se a chi sa da me devo fare la stessa di che devo andare lì, una roba del genere. Io prendo la porto prima, se ce la faccio la porto prima, se no poi sopra il campanello, se non c'è nessuno le lascio fuori, ma siamo già d'accordo con loro così. Beh. giustamente, dopo che li ha portati per tanti anni, conosciuti al giro, conosci. Dipende anche dal carattere della persona che dai, quelli sui sinaputti che dove non sinaputti. Però non si sa come si comportano questi qua. Perché anche ti fanno perdere il cliente molte volte. Cioè, per una cazzata. Ci sono tutti punti chiusi che si attaccano e fa del casino. Io per dire ho avuto problemi con una ragazza che io conosco anche bene, e però di questo lei ne stava approfittando, veniva ogni volta, allora che me ne devo andare, faceva la spesa e la voleva a casa, noi la spesa la portiamo sino a mezzogiorno, poi non la portiamo più. E dopo mezzogiorno io ho altro giro, lo sai benissimo quale, quindi non posso fare certo l'altro. Fatto sta che questa qua la prima volta me l'ha chiesto per favore a me gliel'ho fatto perché la conoscevo, poi ha visto così e la facevo ogni giorno così. E allora io le ho detto che la spesa si faceva sino a mezzogiorno, dopo mezzogiorno io non le consigliavo più. E lui mi ha detto, ma io l'ho chiesto al tuo principale, mi ha detto che andava bene, allora dica a lui che te la porti lui, che cosa vuoi che ti dica io? Non è che posso andare ogni volta a te per portare la spesa anche una volta, per favore, te lo posso fare, però se ce l'avevi abitata a Mari questa qua, ha detto, ma come se gli ha detto, guarda che già dopo mezzogiorno io l'avessi detto che andava da lui, e gli diceva allora un giorno come si fatto a portare la casa, detto e noi ci conosciamo bene, però non è che tu per questo le puoi approfittare, io ti ho fatto il favore una volta, allora tu te l'hai preso al vizio, no, questo non va bene, dice, ma già io lavoro, non posso, ho capito, tu lavori, però tu anche ora esci dal lavoro, allora che devo uscire, anche io voglio uscire, allora che devo uscire. Se sta approfittando, se ne stava. Ma pure da noi ci sono gli approfittatori, ma la cosa, se succede una volta andava, e un'altra volta, due volte va bene, ma se ti rubi il figlio non va più bene. Ogni volta me ne dovevi andare i due, paese, non hai compreso, io esco a una e mezza, non alle due. Tra caricare tutto, portarla, perché poi le gormone della bocca. E fatto sta che tal giorno ha cambiato idea, ha ciambato. Beh, per forza lui ha ciambato idea, è da ciò che lui ha fatto. Ma spendi la splendente, andando magari a partecipare di tende vivo. Però se gli altri fare un culo vanno sempre un limite. Ma questa gente qua si crede che perché dice che va la principale di tutti si cagano sotto, me ne sono così. Io ho un orario, io dico che tante volte per dire ho consegne sopra il furgone e devo finire per forza a tardi, finisco tardi, non è che guardo quello, però cambio arrivo e mi sono bugia a me, devo andare e tu mi dici guarda che sto facendo una spesa, dovresti aspettare un altro po' perché c'è questa spesa, no, non è voluto avere ci fatto arrivare a commessa. Niente paro duro mi sembra niente, perché è un po' mal organizzato il lavoro anche, è da loro, magari ti ruba i pezzi, ti piglia niente, cioè, e ti ruba quindi come ti viene a pelle, è sbagliato, il lavoro bisogna organizzarlo bene, perché altrimenti mettono in croce a te e poi c'è un macello, non ci si riesce a lavorare. Solo che sino a tutti ne che vedremo. E diciamo che ce n'è qualcuna lecchina che ho capito, basta per farsi vedere bella e non avere problemi con nessuno, lei prende, dice sì, gliela facciamo, gliela portiamo, non c'è problema, prende la fa, magari poi quasi non ha un quadro, un invito e te la va. Invece sono commesse che hanno rispetto di chi lavora e gli dicono, no signora, questo oramai il signore deve portare le spese, è già uscito, e adesso a domani. Perché non ha nessun preso che se tu li fai così, tu dici che gliela porti, benissimo, tu gli dici di no, che non lo puoi fare, se non glielo fai, lo si vede di fare un buco duro cliente, non tu che gliela fai porre, non tu che devi fare il tuo lavoro. Quindi cosa succede? Che lo puoi anche perdere, dire ai chipi non ordine più, quello che non ci vuole capire molte volte. Cosa ti fa lo spendere? Prima devi ascoltare. Se uno è disponibile per poterlo fare, se non è disponibile va bene, se uno non è disponibile non lo devi fare. A che mentre fatto spendere l'ordinante quando puoi piacere un cliente? Io sono disponibile sino all'orario che mi tocca farlo, poi c'è un altro collega, siccome l'altro collega lo risparmia, non ci va. E niente, sono disponibile, sì, e sono disponibile anche a finire le 2:30, alle 3, però se c'è da sul cane, già la prima, che non ce l'ho fatta io, può segnare perché ce n'ho troppo, magari, posso capirlo. Mi dà fastidio quando io torno, mi sto cambiando, era come se dice, già c'è una trasferta, e quando le vado, c'è solo a mezzogiorno e mezzo che ho caricato gli ultimi. L'ho fatta dopo, questa cliente la voleva, questa e quell'altra, l'hai fatta dopo. Ma ti la regina, una volta mi piace un vaso, mi diceva, no, già ti prego, no, me ne sto andando, devo fare cose, ciao. Perché dovrebbero prendersi la buona abitudine prima di sentirsi, come sei col lavoro, lo puoi fare? No, benissimo. Uno deve coordinarsi così, non è sì, io faccio portare, bomba, e poi non si può, non va bene, capo. Dove molta gente non capisce proprio niente, la gente si comporta così, no, non ne conosce il lavoro, no, non ne comprende nulla. L'unica che lo fa è una lettina, capito? È una lettina sua che va, che dice tutto, capito? Di chi si un po' bugascetti, là. E infatti quella lì proprio, gli altri non me ne fanno, mi dico, già, ma ne la può portare la signora, no, domani, adesso non ce la faccio più, sono già pieno, ma non ce la faccio, già mezzogiorno e mezzo, però se posso portarla, che sono libero, che non ho altro, che vabbè, gliela portata sino a 1:30, non ho altro da fare, quindi gliela porto, non è problema. Ma quando c'è un po' di lavoro, è un casino, il periodo di Natale, e anche tu non immagini cosa brucia di travata, non lo immagini. Perché poi fai figura del capo, lo fai anche. Dicendo che gliela puoi portare e poi non gliela porti. Ma è una puttana. Vabbè. No, ci sono decreti che si dice di no, si incazzano, vanno da lui, fanno carità, poi no, perché c'è, sono carico, viene a vedere il furgone, se no vabbè, se sei carico. Guarda che io quando la posso portare la porto volentieri, il mio lavoro però finisco, non so come chi si lascia le pigi, si manda le luna. Io ho dei colleghi che fanno così, mi dice, non ce la fanno, entro l'una e mezza, mi devono se ne vanno. Le spese rimangono tutte lì, e chi ti telefono a protestare, ma che marito per mangiare, non è una fuori nulla. Ma io se posso farlo lo faccio, se ne ha troppi. Se ne ho troppe no, a poco vendersi, non posso salvare il mangiare per fare le croce, per fare l'estra, cioè vuole qualcosa di rispetto. Noi abbiamo consigli di mobili, c'è gente che vuole i mobili la mattina, ci sono anche da consigliare le spese, portare la roba nei negozi, fare il giro, questo è un casino. E se posso la metto in mezzo della rigo, ma se non posso, se non ce la faccio, non ce la faccio, dico a stasera. Loro fanno in fretta, dice sì, la portiamo stamattina. Come ti ho detto poco fa, perché non ci prendono la briga di sentire e dire ma lo puoi fare o non lo puoi fare. Ci fanno vedere, sono indipendenti e basta. No, diciamo che è un po' esagerato che per 16 di agosto ci sia solo una persona, insomma, quello lì è senza ombra di dubbio, ce ne vorrebbero 2 mesi e 2 persone, per dire sono 16, 8 li fa uno e 8 li fa l'altro. Invece è tirnata a Bartalone, E quindi poi ci sono dei consigli di serva al ferro, li manca l'acqua, li portare l'acqua, li manca il ferro, li portare quello, perché noi abbiamo il magazzino giù che fa da polmone per tutti i negozi, ce li porta sì in camion grandi, ma facciamo un rifornimento nel magazzino che abbiamo giù, che è grande quanto tutto il capanno, si può immaginare che non c'è mano. E poi quando serve roba a negozi gliela porto, io capito. Però a volte si è stressato perché nei negozi il tempo che vuole la roba, hai dei consigli, sei pieno di pedali di roba, la portata della industria, non vuoi lavorare, quindi si muovava molto tutto a dobbiamo, che cavolo, quando qui ti assicano ti crepa. Succede perché non c'è il coordinamento giusto. Succedono per quello i casini. Purtroppo io so qualcosa, molte volte ci sono con delle di palle. Quando c'è invece un direttore dice tu fai quello, tu fai l'altro, e tu mi dici solo a lui e a voi. Poi cioè, le cose vogliono fatte bene, vogliono fatte, cioè. E poi diventa un casino, diventa per te, per loro, per i clienti, per tutti. Sì, e poi mi rovinano tutto il giro quando sono i colleghi che vanno, perché fanno tutte cose diverse da quello che faccio io, i clienti si lamentano con me, più quando torno mi dico, cioè, dove stiamo andando a finire, questo qui mi ha detto scendo a prendersela la roba e non gliela riporto subito. Devo sorgere. Sì, perché poi se uno conosce il lavoro, devo lasciare fare a conosce il lavoro, no, fare il tocco. No, loro magari lo sanno anche come si fa, però evitano di farlo. Cioè sale, fare le scale col peso mi sono piace, però tanto cosa lui fa? Quando ci sono io vado tutto ansante, ma mettono tutto sudato, però mi viene a dire. E invece lui mi ha detto io non è una rigo, non me la fu tenuta, non so pure un facchino, e da allenato di peso mi ha detto finta lo bucciare, da lo bucciare si è bucciare, se si la rega è da casa, non devo andare a casa si a regare di peso, se vuoi si firma i gemurroni di mobili. Però molte volte ci vuole un po' di buonsenso anche, però che un po' di gente il buonsenso no, non ce l'ha la. Guarda, a me mi conosce molta gente, portatore, se tutti mi toccano la palma di mano, quando vuole portare la roba, rimane, ce n'è però qualcuno che sempre si distingue dagli altri, capito? Ce n'è qualcuno che tutto è dovuto, una voce uno mi ha detto, questo qua che era agli arresti domiciliari, cioè non si poteva permettere, manco di aprire bocca, agli arresti domiciliari, furto, non so che cosa, ricettazione, non so cosa cacchio tutto ci aveva. Se arrivi da bruciare peso la moglie e da dire tu mi un facchino e arrivi, no facchino la gente si dubbi, io sto lavorando per soldi, non c'è problema, ma non ti offendi baro, okay, ma no, okay, ma un cavolo gli ho detto, io l'ho detto in condizione non avrei parlato così, e me ne sono andato, e la moglie si è rimasta secca, ma pure dura ha detto di facchino, ma questa si offende la ieri. Beh, è un miserabile. Preso. Facchino ha rivisto. Insomma, Facchino già è nelle condizioni in cui si è detto che potresti permettere manco di parlare così, hai capito? Manco dall'uscita della porta non poteva uscire, invece ha preso la musa e decide di fura, abita la roba. Miserabile. Lui, va bene dai già. Io ti auguro la buonanotte qua devo chiudere perché non spento il televisore eccetera eccetera. Ciao ciao, buonanotte, ci sentiamo, auguri per domani, ci sentiremo dai domani sera, dai. Ciao ciao. Grazie a tu, grazie, ciao ciao, ci vediamo. Dai dai dai, va tutto bene, non ti preoccupare. Ciao ciao. Ciao, grazie. Tranquillo, tranquillo, tranquillo, domani ci sentiamo sicuro.